avrei mai detto che mi sarei trovato qua, prima di andare a letto, in questa stupida grandissima città, a pensare che forse la tua assenza mi dà conforto più della presenza del resto del mondo. Ed ho cercato il sonno sul fondo di una moca, siamo pinguini che non sanno scappare dalla foca. Vorrei nuotare ma tu hai prosciugato i mari, vorrei volare via ma tu mi hai tagliato le ali. I sorrisi migliori li hai dati a degli stronzi, avevi Ricky Cunningham, hai preferito Fonzi. Ma alla fine va bene, alla fine vai scialla, si sopravvive a tutto ascoltando Lucio Dalla. Siamo la fine del mondo di domenica mattina, siamo una cena nube di candela fra due tariche di benzina. Da quando sei partita io non ho più paura e riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita così? Sono sopra il mio letto con le tue ossa che hai dimenticato. Qui faccio uno scacciapensieri e sulla porta lo metterò. Mi avvertirà quando ricordo che ho di te cerca di entrare ed io non aprirò. E gli occhi sono stanchi, Netflix non lo rinnovo, ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo. Una parola è troppa, due invece sono poche, e allora in bocca al lupo principessa Mononoke. Perché non ho più voglia delle canzoni tristi, che sono come caramelle date dai dentisti. Eravamo benzina, una vita tranquilla, e poi ti ho incontrata ed è scoccata la scintilla. Ah, siamo la fine del mondo domenica mattina, siamo una cena nube di candela fra due tariche di benzina. Da quando sei partita io non ho più paura e riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Siamo la fine del mondo, siamo la fine del mondo, siamo la fine del mondo. Siamo la fine del mondo. Che cosa siamo noi? Siamo la fine del mondo. Che cosa siamo noi? Siamo la fine del mondo. Che cosa siamo noi? Safe.